che ci raggiungono attraverso il nostro sito che è homefood.it, e adesso si sta scoprendo anche in Italia il piacere di condividere le tavole delle case italiane. Quanto costa? Bisogna iscriversi all'associazione, i pranzi, le cene, quanto sì, costano? Al momento il pranzo o una cena costa 50 euro, però probabilmente ci sarà una politica di ridimensionamento, soprattutto diciamo nelle aree meno turistiche del paese. Social eating e sharing economy, questo è il contesto della puntata di oggi, turismo partecipativo, voi vi sentite inserite in questo contesto? Ma guardi, noi sicuramente ci inseriamo anche in questo scenario, diciamo che il nuovo corso dell'associazione avrà uno sviluppo sul web sicuramente importante. È chiaro che noi abbiamo una base che abbiamo solo noi, perché abbiamo un'esperienza di 11 anni grazie alla fondatrice, la professoressa Di Nallo, che ha avuto questa intuizione, ma soprattutto il nostro scopo non è quello di far semplicemente incontrare una domanda e un'offerta di cibo o di social eating, nel senso di esperienza prettamente social. Noi in tutto questo aggiungiamo un valore culturale e di tradizione e di legami col territorio che abbiamo solo noi. Buongiorno principessa! Stanotte t'ha sognata tutta la notte! Santa la mancina, se già avevi quel taglierino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te! E ora... Abbiamo cambiato argomento, ci avete mai pensato? Gli ultimi due film italiani che hanno vinto l'Oscar sono La vita è bella e La grande bellezza. Sarà un caso? È una delle molte riflessioni che lanciano i promotori della neonata Fondazione Italia Patria della Bellezza, una fondazione che intorno alla bellezza propone di definire e sostenere l'identità competitiva del nostro paese per contribuire al suo rilancio. La bellezza è parte del patrimonio identitario dell'Italia. Il nostro paese però, così ci dice l'ultima ricerca del Reputation Institute, piace poco agli italiani. Solo il 50% ne ha una buona considerazione, molto meno pensate di Cina, India e Corea del Sud. Il presidente della fondazione Maurizio Di Robilant. Credo che c'è bisogno di aiutarli a ricredere in loro stessi, e non ricredere in loro stessi per una storia, ma per una consapevolezza, prendere consapevolezza che vivono nel paese più bello del mondo e che producono i prodotti migliori del mondo. Allora, signori, svegliatevi. Cioè, non è pensabile che non vi rendiate conto del paradiso che il mondo intero vede. E se non lo vediamo noi, non siamo capaci di raccontarlo, non siamo capaci di competere, non siamo capaci di usarlo come leva di competitività per i nostri prodotti, per i nostri servizi. Allora, il primo compito che la Fondazione ha è quello di aiutare gli italiani a riprendere consapevolezza del loro grandissimo patrimonio, del loro potenziale, che nessun altro paese al mondo ha. Sai, quando ci pensi, dici, ma non è possibile, è sotto gli occhi di tutti, ma non ve ne accorgete, non capite che con questo voi concorrerete nel mondo e vincerete le battaglie, perché il mondo ha bisogno di bellezza, è con la bellezza che il mondo cambierà, non è con le bombe, e noi portiamo bellezza nel mondo. Lei parla di una vera e propria economia della bellezza. Credo che sia importante per il mondo della finanza, per il mondo dell'economia, che in qualche modo ha perso il sogno, di capire che invece esiste un comparto dell'economia che è fatta del sogno che noi siamo capaci di dare e che si chiama l'economia della bellezza, che è complessa, ampia, ed è per questo che con Prometeia stiamo cercando di analizzarla e tracciarne un profilo, di modo che poi diventi misurabile, diventi, come posso dire, uno strumento di sviluppo e di correzione dove ce n'è bisogno. Un paese così ricco di storie, così ricco di esperienze, così ricco di potenzialità, se sta seduto su se stesso, francamente succede quello che succede, che viene scoperto da altri. Pensate al Chianti Shire, è stato stato scoperto dagli inglesi, creato dagli inglesi, è diventato un grande successo. Sta succedendo questo anche nel Salento, per esempio. Ma come? Ma dobbiamo aspettare che vengano gli inglesi a scoprirlo e far lievitare i prezzi in maniera impossibile, o dobbiamo cominciare a svegliarci noi? Noi abbiamo la fortuna che alle megalopoli non arriveremo mai, perché abbiamo il territorio più straordinariamente pervaso da meravigliose città. Allora, questo è un patrimonio per il futuro e per la qualità della vita del futuro che il mondo intero ci invidia. Ragazzi, di nuovo, svegliamoci. I consumi cercano la perfezione. Come? Attraverso l'eccellenza artigianale. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Essere e avere. Tre liutai avevano fatto il loro lavoro per anni nello stesso isolato della piccola città di Cremona. Dopo anni di coesistenza pacifica, la bottega di Amati decise di mettere un cartello in vetrina che diceva «Facciamo i migliori violini d'Italia». La bottega di Guarneri seguì subito l'esempio e mise un cartello nella vetrina che diceva «Facciamo i migliori violini del mondo». Alla fine, la famiglia Stradivari mise un cartello alla porta del negozio che diceva «Facciamo i migliori violini dell'isolato». Focus sui trend. Arte e industria, fatto a mano e tecnologia, pezzo unico e produzione in serie. Mai come in questo periodo questi mondi contrapposti quasi per definizione cercano e sperimentano i punti di contatto, dalla ricerca dell'eccellenza alla valorizzazione dei saperi e delle tecniche di un tempo. I consumi oggi trovano, diciamo, il compromesso storico tra maestria artigianale e processi industriali, dalla moda al design, passando per il cibo, l'editoria, la grafica. Andiamo subito a scoprire i casi simbolo, le storie, gli esempi, insieme a Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata. Grazie, un saluto a tutti. Partirei, Sabrina, dalla definizione di questa tendenza. Voi parlate di wise perfection, saggia perfezione. Perché questa definizione? Mi incuriosisce molto. È perché l'incontro ravvicinato tra arte e industria si fa sempre più sentire, appunto. Con Wise Perfection parliamo di una tendenza estetica che presenta i frutti virtuosi di abilità artigianali, di competenze industriali, una relazione che è diventata ormai quasi osmotica, che produce segni di nuova saggezza estetica, cultura del dettaglio, cura del fatto ad arte, un orientamento verso la ricerca di tecniche, lavorazioni, pratiche e anche regole e occasioni a rischio di estinzione, ma non è un percorso nostalgico, assolutamente, ha stimolato una nuova visione progettuale. Quindi non si tratta solo di sinergie eccellenti, ma anche di sviluppo di nuove percezioni, visioni, proposte concrete. Ecco, il ruolo chiave di questo incontro è stato quello delle persone, le persone che sono dietro e dentro il lavoro minuzioso, i percorsi produttivi, spesso dietro le scene. Vedi ad esempio il video che ha lanciato Dior con il lancio della collezione primavera-estate dell'alta moda. Si è partiti proprio dal gesto delle persone che lavorano, dalla sartoria, dagli artigiani che realizzano le plissettature, cioè quindi tutto quel piccolo e importantissimo fare che è dietro poi una grande produzione, un grande talento. Questo video lo testimonia, lo abbiamo già postato sulla nostra pagina Facebook, è una tendenza che nella moda è molto in evidenza. Assolutamente, in effetti, come dici tu, nella moda si evidenziano molte lavorazioni sofisticate, a volte apparentemente realizzate al mano, che oggi l'industria ha metabolizzato e ha fatto come proprie, oppure con veri e propri tocchi d'artista, come visioni e percezioni quasi oniriche, oppure come interventi diretti sui capi. Parlo di ricami, ad esempio, o altri interventi virtuosi, unici, che arricchiscono ancora di più i livelli di perfezione che solo l'industria ci ha abituato. Faccio l'esempio di Moschino nella scorsa edizione della Milano Fashion Week, il lancio della collezione autunno-inverno, in particolare l'ultima uscita, quella degli abiti da sera, ha lavorato moltissimo sul segno e sull'immaginario legato ai graffiti, ma in qualche modo indossati e valorizzati attraverso abiti da sera dove eccentricità e glamour vivevano insieme, quindi dei capi sui quali poi si era intervenuti con dei ricami, qualcosa di molto sofisticato, quindi due mondi a confronto e non solo a confronto ma insieme per un prodotto di grande grande respiro. In grande evidenza infatti ci sono i tessuti, non solo i capi. Assolutamente, c'è un grande recupero delle tecniche artigianali. Ad esempio in Giappone c'è una prefettura, Tokushima, che dal 1700 è il centro della tintura tradizionale con l'indaco. Ecco, qualche anno fa, nel 2012, due giovani coltivatori e tintori giapponesi hanno ripreso questa tecnica e attraverso delle ricerche e delle sperimentazioni ulteriori hanno rilanciato e aperto nuove possibilità, sempre rispettando la tradizione della tintura con l'indaco. Addirittura l'anno scorso hanno aperto negli Stati Uniti, a Brooklyn, una serie di attività, li chiamano Buizhou Brooklyn Lab, con workshop e iniziative di esperienza e sperimentazione con questa particolare tintura. Sempre parlando di Giappone, sempre parlando di moda, immaginari, un designer, uno stilista molto importante, giovanissimo ma già diciamo al centro dell'attenzione, Morinaga, con il suo brand Aria Lage e con quest'ultima collezione Light. Ecco, per questa collezione lui ha appunto lavorato sulla luce, con la luce che penetra la fibra stessa dei capi. Anche guardare l'ultima sfilata, potremmo dire che visione onirica, quindi mondi altri, e alta tecnologia, quindi lavoro competente sulla materia, sono uniti, e quindi ancora una volta è una questione di sapienza. Per il design che cosa possiamo citare? Guarda, rimango in Giappone, è una collezione di tazzine, Mirror Coffee, una brand giapponese, Dibro, che ha lanciato questa collezione di tazzine da caffè, ma anche dei mug, si chiamano Valser. C'è un gioco molto intrigante, un'illusione ottica di grafiche, di disegni sul piattino che vengono rispecchiati dal corpo della tazzina, un lavoro molto accurato, nel senso che realizzato con una porcellana particolare, si chiama Asami, e rivestite le tazzine con palladio, che è un metallo ancora più raro e prezioso del platino e dell'oro. Quindi questo gioco di immagini che vengono riflesse e che creano proprio un altro insieme ha richiesto un'attenzione sia produttiva che artistica molto molto molto avanzata. Abbiamo accennato anche al cibo in apertura, forse uno dei settori più delicati, direi, per questo discorso, perché fatto a mano e industria è una leva molto forte per la comunicazione, difficile trovare però il connubio poi nei prodotti. Sì, anche in quest'area troviamo degli esempi significativi. Ti porterei un esempio di cioccolato, qualcosa di goloso. Due gourmand francesi innamorati della città di Parigi hanno lavorato sia sul contenuto che sul contenitore. Sul contenuto, lavorando sul cioccolato artigianale al 100%, con puro burro di cacao e con tutte le regole per un prodotto sano e buono, ma hanno lavorato anche sul bello. Allora, la produzione del cioccolato si rifà a una lavorazione particolare di una zona dell'Île-de-France, e per quanto riguarda il packaging hanno sempre lavorato sull'immaginario e sull'origine locale, l'immaginario di Parigi, ecco, quindi lavorando sulle icone, sui personaggi più famosi, sui colori, su queste ispirazioni, e hanno sviluppato un percorso coinvolgendo 45 artisti di aree diverse, pittori, illustratori, autori di fumetti, grafici, e quindi regalando ai consumatori tante possibilità di riquadri, tante possibilità di tavolette rivestite con immagini che nell'insieme hanno composto una collezione d'arte grafica, quindi decorazione, immaginario e cultura francese insieme. C'è tempo per un ultimo caso. Chiudiamo con la seduzione di progetti e di oggetti realizzati a mano. Carnet d'Ivoire è un piccolo capolavoro di carta, una rivista realizzata interamente a mano, sempre da un altro artista francese, Yvan Dion. Ha realizzato 2 soli numeri in poche settimane, proprio una realizzazione che ha reso, come dire, onore a tutti quei riti, ai gesti, al sapere artigiano che stanno dietro a una pubblicazione, quindi un vero e proprio libro. Appena 100 esemplari per ognuno dei 2 numeri e 5 edizioni da collezione. Ecco, potremmo dire anche con quest'ultimo esempio che con Wise Perfection si presenta il futuro e anche il quotidiano dell'oggetto d'arte nell'era della sua riproducibilità tecnica e anche le nuove frontiere. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. Grazie a te. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale sulle piccole e grandi rivoluzioni in atto nel mondo dei consumi. A guidarci nell'analisi c'è, come sempre, il nostro ospite fisso, Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa. La parola chiave di oggi è uno dei grandi temi del momento, la trasparenza. Sì, la trasparenza, che almeno in Italia, giusto per chiarire subito, è il contrario della dietrologia. Noi siamo una cultura diffidente, una cultura che da sempre immagina che ci sia qualcosa dietro ai numeri, alle cose, ai fatti. Faccio un esempio che riguarda un po' tutti noi. Dalla fine di marzo è partita la fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione, ma questo è un elemento che riguarderà sempre di più ognuno di noi. Ecco, fatturazione elettronica vuol dire trasparenza in uno dei passaggi più importanti nella relazione, ad esempio, con lo Stato e con la società. E questo vuol dire non poter più giocare sull'ambiguità. Ecco, è un passaggio culturale che con fatica oggi non dobbiamo accettare. Un passaggio culturale quindi collettivo, ma anche della cultura d'impresa. Della cultura d'impresa, perché sempre più la relazione prodotto, qualità del prodotto, promozione e vendita sarà lineare, le persone avranno la possibilità e quindi la trasparenza per poter capire quel prodotto, dove, come è stato realizzato, e giudicheranno sempre più non solo una qualità nell'uso, ma una qualità nei processi. E questo va compreso in tempo, perché diventerà davvero altrimenti una forca caudina. Sono dinamiche queste legate alla trasparenza che dal basso, per così dire, sono già consolidate, sono ad esempio la norma in tante abitudini di consumo e di vita. Pensiamo al potere delle recensioni online, pensiamo alla visibilità che hanno acquisito sui social anche i dialoghi customer care, azienda, utente. Eh sì, ed è proprio lì che oggi noi dovremo ripulire, no, questi passaggi, questi canali di comunicazione che troppo spesso hanno avuto delle ambiguità perché li si potevano nascondere. Oggi questo non sarà più possibile, quindi vincerà anche il più bravo da questo punto di vista. Quando noi continuiamo a parlare di meritocrazia, probabilmente intendiamo anche questa capacità di essere davvero i migliori e di poterlo dimostrare con i numeri. Grazie Francesco, a domenica prossima. Grazie a voi. E grazie anche in regia a Valeria Bernardi. Essere Avere finisce qui, resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.